canzoni, non conoscete le emozioni. Mentre voi siete fuori, i vostri genitori conoscono dolori. Mentre tu per lo sballo ti senti leone, non dimenticare che un genitore muore. Non finire come me, non finire sulla mala strada. Qui Joker.